Allora, eviterò la mia performance musicale per vostra fortuna, anche perché non ci siete più. Però siccome l'ho scritta la poesia per Oriente, gliela leggerò e vedo qualcosa. Un po' più bassa la base, grazie. Sotto al suolo stai contorto, come vampiro nero non sei morto. Buchi da 2 metri sottoterra, apri la porta alla tromba e alla chitarra. Scende la band per l'ardita scala, per accalcarsi nella giunta sala. Graffischi, scoppi, le ascelle assai sudate, spacca le orecchie e le note un po' stonate. E Stefano, con sempre plastica posa, spicca dal muro uno strumento bianco e rosa. Poi, come Dio sorridente, alza il basso, abbasso il presidente, che se s'affaccia laggiù dal Quirinale, sono sicuro che poi si sente male. Sono 20 anni che gli trema il pavimento, ma la statua di Roma è un monumento. Visitato dalle Americhe, da Oriente, da Fidene, eppure dall'ufficio dell'igiene. Maschile e capelloni, vittime dall'aria, suoneranno consumando alimentari, pur se l'acustica è un po' più riverente, rendendo sempre grazie al grande Oriente. Grazie Oriente. Ti do il foglio di